cominciato lì in impianto, arrivavano e allora lasciavano i rimorchi, li lasciavano lì a caricare e il principale lo chiamava e diceva vai a Sassari, pigliano un altro intanto, canto casa del regno di Dio, lì e là. E alla fine sono stati pure contenti quando lui mi ha detto, dice no, dice qua il rimorchio va caricato e fuori subito perché ci sono gli altri da caricare, da entrare. E allora io gli durante il carico si basava di più. Lo so com'è. A me arrivavano, alla tempo arrivavano gli autotreni carichi di tutte e di più, di collettame, ma di tutte e di più, Martini, e poi noi li dovevamo dividere, c'erano nei muri, c'era scritto per dire Olbia, Porto Torres, eccetera, eccetera, e tu mettevi, lo dividevi, no, per dire 10 a Porto Torres, 5 a Olbia, capito? E poi da lì caricavi carichi. E con chi eri tu? Con la Temi. La Temi con l'esame faceva? Certo, faceva tutto. Io ero con una ditta che lavorava all'interno della Temi, che si chiamava Carava. Sì. Che è un bel lavoro quello, sempre si è pagato, perché uno che cammina, che va, deve essere anche pagato. Noi avevamo anche il pranzo pagato, se andavamo fuori ci avevamo un budget da spendere per il pranzo, se spendevi di più te li aggiungevi tu i soldi. Buono. Mi pare che erano 27.000 lire che ci davano. 27.000 lire che mi c'erano, mamma mia. Ma molte volte mangiavo un panino, capito? Non ne spendevo nemmeno. Va bene, ragazzi, vi saluto, ci sentiamo, dai, che vado giù. Ciao Carlo, se c'è ancora. Ciao Gianni, ciao Giovanni, ci sentiamo, avanti Giovanni. Ciao Fra, ci sentiamo. Attenzione Franco California, ci sei? California, ci sei? Io ho pescato qualche squadra. Avanti Giovanni. C'era un certo Gianni, ma io ti disoccupavo di un po' di anni fa, non avanti. Io tu pensa che dove ho fatto c'era 38 anni, io ti sto parlando già di una quarantina d'anni. E c'era Gianni, quello che faceva il pugile, poi c'era Luzzi, c'era Manca. Tu pensa che la Temi era in via Ussi, quando lavoravo io era in via Ussi. A chi? Ma Aroni era un'altra ditta, non era della Temi. Allora, dei magazzinieri, vabbè, ce n'era uno che lo chiamavamo Corvo perché c'era il camice nero, non so mai come si chiamava, con gli occhi chiari. Poi ce n'era uno che era di Porto Torres e non mi ricordo mai come si chiamava di cognome. Adesso proprio non mi viene. Però lì si lavorava a rotta di collo e arrivavano gli autotreni, dovevi sistemare la roba, nel muro c'era scritto la città dove dovevano andare e tu mettevi i pesi, 10 per dire a Porto Torres, 10, quando arrivava il Martini poi dividevi il Martini, poi c'era altra roba che arrivava e via dicendo, là. era un lavoro che non finiva mai, poi arrivavi stanco a volte, dovevi caricare il camion per domani, ma vi lavavo. Allora noi avevamo di portatore, c'era la scamacca di portatore, se poi l'altro non me lo ricordo, so anche dove abita nella 167, ma non mi ricordo come si chiamava, però era magazziniere anche quello. E vabbè, magari i tempi non erano quelli, erano tempi diversi, e diciamo che ti sto parlando tanti anni fa. Ma io non ci sono stato molto, alla tele, perché poi ho trovato subito un altro lavoro, ho fatto l'assicuratore e poi sono entrato al Tourist Market a lavorare. Vedi, quello dell'assicuratore è un lavoro tranquillo. Quello organizzavo il lavoro io, se ci volevo andare a lavorare ci andavo un giorno, se non ci volevo andare non ci andavo, non erano problemi. Io ci avevo tanti clienti da riscuotere i soldi e a volte facevo anche contratti e praticamente in un mese mi dovevo sbrigare tutti i clienti e ci avevo la percentuale sui clienti che incassavo, più diciamo ci avevo un budget. Ma entro solo per salutarvi perché non posso stare che c'ho gente. Ciao Gianni, Franco e Mario sei in ascolto e Giovanni, ci sentiamo alle prossimine. Ehi, ciao Tano, ti abbiamo chiamato 2 o 3 volte, infatti non hai risposto. Va bene, buona serata, dai, buon tutto. Luca non è entrato stasera. No. Ma eravate amici con Luca? Ah, ho capito. Vabbè, comunque è già una brava persona. Quando può dare una mano già la dà. E poi lui costruisce antenne, quindi bene o male sa com'è la situazione per piazzare, per tutto, capito? Vabbè, io ti sentivo sempre, ti sentivo basso, ma ti sentivo anche prima. Detto dove sono o chi sono. Io sono Gianni doppio room. E sono a Sassari, non la via Malvedra. No, doppio room, è la stessa cosa, K-K. Ma vabbè, comunque, tu nominativo non ne hai. Cosa? Stanco! Allora diciamo un peroncino. Giovanni Peroncino. Peruccino, aspetta, no? Giovanni Pellicino. Ti ho battezzato io. Cava cava. Vabbè. Io sono quello che ho, tu sei Peroncino. C'era anche a Sassa di Sambuca, Sambuca c'era, e poi vabbè, si è sposato e cose, non ne ha più usato il baracchino, però io lo conoscevo, uno che si chiamava Sambuca. A Sambuco. Non ho capito. E vabbè, ce ne sono tanti nominativi. Comunque Peruccino è bello. Allora, Giovanni Peruccino. E quindi adesso stai. Cosa c'hai? Sono la 48, lineare guasto oppure funziona? Ti fate là! Cos'è? Della Z-Gia? Sarà la DV131. Da 600 watt, ma non ciuccia correnti chi sta. Ehi, ma ti chiude le ultime chi su cosa? C'è quando come vedevo uno che quando modulavo spegneva le luci di casa e mamma si incazzava. ti ho capito. Prova a metterla uno, ma vuole, no, lascia stare, vuole quello regolato bene. Se no, se non lo sai fare, meglio che non lo tocchi, se no ti fai bruciare. Fino a quanto sale la lancetta. E allora c'è stazionaria, deve arrivare massimo a 9. C'è stazionaria allora. Sì, ma quando tu attacchi il lineare, vuole regolato pure, capito? Una cosa se attacchi solo il baracchino e bisogna stazionare con il baracchino solo, una cosa se attacchi anche l'amplificatore che dà più watt e ti aumenta anche le stazionarie. Ma cosa la se ne ha fatto? Se è vero non sta andando. Ah, vuole pilottato, va, fatelo vedere da Gianluca come si sa, perché vuole pilottato, se non lo pilotti bene rischi di bruciare tutto. Meglio di no se non lo conosci. Quello lì schicchia forte. Aumenta il segnale almeno di 4 segnali che stavo guardando chi mi stava strapperando, ho capito adesso. Cazzo, a manettone, non si capisce nulla, mi sta strapperando. Aspetta un secondo. Se fa bene mi senti? E io non mi stavano, non capisco nulla, mi stavo spapperando. Siamo a canali sul 23, sono, passa sul 23. Giovanni, sì, sì. Giovanni e me. Ma si è passato sul 23? No. Che sei deciso di dirsi? Ehi, ciao. Non mi butti almeno. Ciao Gianni, come va? Bene, bene, Ali, tu? E abbastanza bene. A voglia, a voglia. Cava, cava. Toia. Sono un po' stanco oggi, dai. Ho fatto un po' di lavori, di cose, ho fatto spesa, so, sono vicino. E quando è così, tira là e vai qua, vai là, alla fine poi ti grippa. Io sono tutta la mattina in giro, ufficio di collocamento, dopo quello sono andato a ritirarmi fuori Uise, al CAF, alle Cunce, a Piri. Poi ho preso il tram, sono passato dallo SPI, mi sono pigliato due o tre lattine, poi sono sceso da Fusaro, ho preso la resistenza di un lineare che ho qua, nuova. E poi sono risalito da Guentram, sono entrato a casa, era nulla e qualche cosa. Figura, tutta la mattina in giro. E poi ieri notte, vabbè, ieri notte ho dormito anche poco. Figurati, c'avevo mal di stomaco. Ho mangiato, io alle 2:30 mi sono svegliato, sono andato in bagno e poi mi sono fatto una cavoida calda. Quindi poi c'era il cane, è venuto a rompermi le balle. E quindi mi sono svegliato alle 7:30 e sono andato lì all'ufficio di collocamento a sistemare tutta l'ambalala, perché adesso ci vuole il foglio anagrafico, capito? Ho capito, vabbè, è interessante mangiare più presto, magari la notte, perché se no poi non digerisci. Io adesso mi sono preso l'abitudine, verso le 7:30 mangio e poi vado a portare il cane e poi sono più tranquillo. Mangio sia io che il cane, tutti e due, e poi lo porto giù e poi quando salgo non ne posso stare bello strappalcato al di là. Ah beh, no, stasera il cane non lo porto giù io. Ieri ho portato a Porta Mona, perché Simona va a fare un attacco lì al centro di Cerni. Ma già decaduto il gallo, mamma mia, è macchina, me la si lendi, vera. Cominciamo, perché non è abituato, capito? Dove vado a prendermi, che era un bel cazzo, un bel mare, un bel sole, e tutto gira, gli ho detto, mi piglio una casa in affitto qui, gli ho detto, questo inverno e almeno sto bene. Beh, sarebbe bello. Solo che costa, non lì per caso. Vabbè, non più di tanto, se vai verso le dimici, quella zona lì, non le paghi molto l'affitto. Quelle case che stanno lì alla... come si chiama? L'ultimo bar che c'è, quel bar tabacchi, viste quelle casette. Sono andato lì, sono andato, ho fatto anche la fotografia, c'era un mare, ma veramente bello, odio era. Ti potevi fare il bagno ieri. E quando hai fatto la visita con chi l'ha lasciato il cane? Come siamo entrati dentro, ha fatto l'attacco lì, non io. Hai capito? Io sono rimasto fuori, poi è venuta Giovanna a prendermi verso mezzogiorno e mezzo. Stava guidando Alessia, mia nipote. Ah, ho capito. Ah, ci ho capito. E come va questa attacca lì? Perché mi hanno richiesta per la domanda di pensione per Simona, lì a Vizzetto, capito? Ah, ho capito. Vabbè. Ma, ascolta, tu non dovessi prendere anche qualche pensione di validità? Magari, 67% sono di validità. Detto solamente stamattina quando l'ufficio di collocamento dice, tanto legge, E stai tranquillo che adesso quando ti chiameranno da Cagliari, scorda tutto che ti puoi lavorare, mi ha detto, perché non ti piglieranno per niente, con quello che c'hai, mi ha detto, di patologie. Dice, puoi anche tranquillamente rifiutare, mi ha detto. Tanto ti rimane sempre la carta, mi ha detto, non te la toccano mai. Mi ha detto, a me mi piacerebbe più lavorare, ho detto, come Birello anche, il problema. E ci sono, detto, 1500 persone in fila, ho detto, per essere assunte. Oh, yeah. Sai il casino che vero che ci colocate, io mi ricordo quando andavo io, la ragazza, non so più bene niente. Adesso non c'è più nessuno. Ma comunque eravamo in quattro stamattina lì all'ufficio di collocamento, perché stavo assumendo una ditta di Apedanieta e gli hanno chiesto il certificato anagrafico, capito? E, per essere assunti. Ho capito. Vabbè. Ma adesso ogni tanto su internet io ho mandato, cerco lavoro, così, ma non per me, là. E... ogni tanto mi mandano qualche cosa, lo spista assumendo, un sacco di gente. Ma cosa è andato lo spista assumendo? Oh, che non c'è niente. Giuseppe ha risposto a questi qua, gli ha mandato il curriculum, gli ha detto che ci vada all'ufficio di collocamento, è andato lì e gli ha detto guarda che qui non esiste nulla, dice, l'hanno presa in giro. Hai capito? Quindi sono tutte cazzate quelle, non stanno assumendo nessuno. In bacheca non c'è niente, se tu vai all'ufficio di collocamento, mattina alle 9, ti fai un giro dentro, nella bacheca all'interno non c'è nulla. Capito? Lavoro proprio non c'è nulla, ho chiesto io se c'era qualche cosa, qualche lavoro per gli invalidi, dice Antonio non c'è niente, mi ha detto, no. Inutile dice che viene ogni mese come vogliono loro, se no te tolgono la cartina, non v'è nulla, mi ha detto, dice. Oh yeah, casino, ma c'è ancora quello che sembra babuzie, non babuzie che... come si dice? Ma sono dovuto. No, non ho visto io. C'erano quattro persone, quattro dipendenti, di quattro, cinque, non di più. Uno si chiama Stefano Cossiga, si chiama. Gli invalidi, capito? Stavo assumendo solamente stavo facendo tirocinio delle ragazze nuove che hanno assunto io l'ufficio di collocamento. E stavo facendo tirocinio affiancati a quelli che lavorano lì. E basta. Quindi lavori non ce ne sono, la richiesta di lavoro non ce n'è. Nulla, non c'è niente, se no te l'avrei detto immediatamente, non c'è nulla, mi ha detto solo dice ti raccatti, intanto dice non c'è niente in Sardegna, dice ti chiameranno, dice la Cagliari, dice ti chiameranno, sarà molto difficile, ha detto, dice qualcosa che c'è, con Covid e cose del genere, tipo che assuma, ho detto, mi ha detto. È arrivata bene, ha detto, va bene, ha detto come uscire, io ho detto come varietà che ho, pure lì con il bidello, ma ha detto sarà molto difficile, ha detto, con i tempi che contano adesso, ha detto. Bobo, è un casino, non è solo il Covid, no? Avevo pure questa storia dell'Ucraina con la Russia in guerra, poi sta intervenendo l'America, ci siamo coinvolti anche noi, perché le basi in Europa ce ne sono tante, le basi americane, quindi se scoppia la guerra succede un casino questa volta. Beh, se scoppia la guerra, Putin ha già detto che sta facendo arrivare un po' di navi nel Mediterraneo, navi sottomarini, quindi io dico che in Sicilia lì si cagano sotto. Non so quante bombe gli hanno dato all'Ucraina, all'America, per difendersi. Aspetta un attimino, c'è Giovanni! Avanti, Peroncino, sì. Ah, io non ti capisco, Giovanni. Secondo me che ce ne andiamo su un altro canale, perché qua mi stanno splatterando di brutto. Non riesco a capire nulla. Deve essere c'hanno un lineare attaccato al microfono a manettone. Non comprendo più nulla. Facciamo 40, va, andiamo su 40. Giovanni Peroncino, ci sei, cambio. Giovanni Peroncino. Lei sì, ci sei. Hola. Attenzione, Rintintin. Io sono qui, sono qui. Stavo facendo il coso che sento da l'ospedale civile. Non è il rumore che fa di salventola. Allora, che cosa c'hai? Ti devi attaccare? No, c'ho la ventola del coso, messa in me. Mi ha attaccato, ce l'ho. Adesso, 1, 3, 4, 5, 6. E ti continua quasi la modulazione, mi ha detto. Non so, ma adesso quanto è il segnale? Ah? Il segnale quant'è? Quanto sta arrivando? Non te lo posso dare il segnale perché c'è uno smitter che non sta andando bene. È un po' raro, capito? Massimo segna 9 e vorrebbe regolare lo smitter. Ho capito. Era coperta dalla ventola prima, adesso ha passato un po', però prima era coperta totalmente dalla ventola e la modulazione quasi ti copriva. Io lo so, devo ingrassare la ventolina. Adesso vedi se è uscito bene, allontanatela. Adesso se me lo segna l'ingresso. Ma un cazzo lo segnava. Adesso devo controllare domani i rigori. Mi così cerco di sistemarlo. Avanti Peroncino. Ti conservi bene così, ti berna. Va bene, dai, ci sentiamo. Buona serata. Ciao ciao, alla prossima, avanti lì. Che Peroncino è? Non lo so, chissà che è chiusa, vero? Birolandese, di birolandese. Una volta c'era capito Don Peroni, te lo ricordi? Parlava altissi. Eia. Oggi più inteso che era quando era successo casino, che avevamo dato la moglie, non oggi più inteso. No, quello non me lo ricordo. Io, guarda, sono stato il padrino io di Giovanni, me l'ho messo io Peroncino. Ah, per quello, Stamane c'era il coso, lo sapevi, il funerale di coso di alle 3, di dove sta Cittadio? di chi? Vittore Sagittario. Sagittario è morto. Eia, infatti. È morto anche Nino, Torre Bravo, lo sappi? Eia, l'ho saputo, mi ha detto Giuseppe... Cosa me l'ha detto? Di... Raffa Cuffia. Di Torralba. Io sono andato anche al funerale, ma me l'ho detto all'ultimo momento, io non sapevo nulla. Me l'ho detto, si andava al funerale, sono andato al funerale alle 3:30. Sarà 2 settimane fa. Ecco, una cosa del genere. Vabbè, mi ha detto che era malato, quindi da parecchio tempo. Dottore proprio era tranquillo, era, aveva fatto una cura dimagrante, andava sempre a farsi, a ballare, a mangiarsi la pizza, a bersi la birra. Non pensavo che l'avrebbero trovato morto la figlia. Quanti anni ci aveva il Sagittario? Giovane, aveva avuto una sessantina d'anni, dovrebbe essere l'età mia. E di cosa è morto? Dovrebbe essere infarto. Vedi, non sei malato, ti viene un colpo, riuscire a rimanere a te. Non vuol dire a volte. E da quando c'è questo vaccino, venite, morite, ho di infarto, d'ictus, dopo un po' di tempo, capito? E poi non fumava lui, e manco beveva, anzi la birra beveva l'ultimo, perché quando c'era il circolo, cioè il centro storico, non toccava nulla. Lo so, purtroppo è così, purtroppo la vita è di passaggio, poi ci siamo e domani no. Io lo so. Devo dimenticare a farmi la terza dose, perché a Simona l'ha fatto male l'altra volta, l'ultima dose che ha fatto. Il braccio è stata da dove per più di 2 settimane, figurati. Prima Luca che ha fatto la seconda dose ed è venuto con una paralisi facciale. C'ha l'occhio bloccato e la bocca storta. È stato 20 giorni ricoverato, poveraccio. Luca chi? Luca... Flipper. Ah, Luca Flipper. Stamattina sto a casa sua. Ho preso il tram lì, da 4. E via. Purtroppo non è a tutti che fa bene questo vaccino. C'è gente che non lo sopporta. Però sei fuori dal mondo. Se non ti fai i vaccini non puoi sederti al bar, non puoi prenderti un caffè, non puoi entrare nei locali, non puoi fare nulla. Non puoi andare a mangiarti una pizza. Sei fuori dal mondo. Sei estraniato da tutto e da tutti. Già lo so. Infatti stamattina a mezzogiorno e mezzo da una l'ho fatto casi dal centro storico, perché se sono di tutte le balle, non entra più nessuno nei bar, nei circoli, perché ci vuole questo cavolo di Green Pass, capito? E siccome dal centro storico nessuno ce l'ha, quindi era piazzato casino stamattina alla una. Ma quelli di coloro? Quelli con il Vittorio Emanuele. Mi ha telefonato un'amica, mi ha detto c'è un casino, stanno facendo, vogliono chiudere tutto, perché dice non si può andare avanti senza, cioè che non viene manco un cliente, perché lì al centro storico. Ale, perché la storia è questa, che se non c'hai i vaccini non ti fanno entrare, non ti puoi sedere manco fuori senza vaccini, senza avere il Green Pass, il Super Green Pass ci vuole, quello con 3 vaccini. E lo so, me l'ha chiesto ieri a me il Green Pass, quando sono andato al bar lì a Piazza Mola, a Bar La Torre, già c'era presente qual era. Anche se qui passa a me a Simona. Simona ha fatto il terzo vaccino, invece io c'avevo il secondo, mi scade adesso il primo di febbraio. Però c'ho l'appuntamento il 28 per farmi il terzo vaccino. E adesso devo vedere un po', perché aspettare fino al 28. Non posso entrare in nessun posto. Hai capito? Sono fregato per quello, e se non ci vado io a fare la spesa, che cazzo vuoi che ci vada? E quindi adesso, dopo domani, vado lì a Rizzetto, se mi fanno il vaccino, senza prenotazione, vado, se lo posso fare, se la piglia in culo. Ma devono essere passati 5 mesi dal secondo, capito? Vabbè, ma per la spesa non te lo chiedono, per entrare al supermercato non ci vuole. Per lo meno sino adesso, e poi se cambiano, perché di tanto se ci ammetti, sino adesso non ci vuole per fare la spesa. Ma per andare al bar, per andare a mangiare la pizza in pizzeria, non puoi fare nulla, niente. Sei fuori dal mondo. Io vado a tutte le parti tranquillamente, quando me lo chiedo le ho presento, me lo sono fatto plastificare, l'ho fatto rimpicciolire e plastificare, lo tolgo perché al telefono non mi fido, perché poi magari ti scompare e perdi la pagina e non riesci a trovare le cose. Allora mi è già successo con la storia dell'Ips che mi hanno chiamato a fare la visita e ci sono andato con un giorno in ritardo perché mi è scomparsa la... Mi hanno mandato il messaggino, mi è scomparso, non so come ho fatto, se ho toccato io per sbaglio che cosa, e sono andato con un giorno in ritardo, meno male che gli ho chiesto il favore, e mi ha detto ma lui non c'era ieri, cavolo ieri, e io ho perso il messaggio, guardi, e gli ho detto non so cosa dirle, se me lo vuole fare lo stesso, sì, vabbè, adesso chiedo, ha chiesto, ha detto sì, sì, vabbè, già gliela fa lo stesso. Ho capito, hai fatto bene. Io ce l'ho in carta, non è mai solo il telefono, a parte lo sai col telefono può entrare chiunque, capito, e magari si fa il passo nome tuo, e quindi nel telefono non ci ho messo proprio niente, non mi fido più di nessuno. Con i tempi che contano adesso, con il lockdown, non sai quante, sei quanta gente furba c'è, entra nei telefoni, capito, a prendere i dati tuoi, eccetera, eccetera. Ma infatti, non conviene. Ma un po' per tutto, il telefono puoi perdere, un po' tutto, capito? Io ce l'ho dentro il borsello, quando non lo chiedono lo presento, me l'ho fatto rimpicciolire, l'ho messo nel portafoglio, tolgo le rimpasse, lo faccio vedere e me lo rimetto dentro. Perché poi quello di carta, in tanti posti non lo leggeva, perché loro lo leggono col telefonino, il telefonino li fa da lettore, no? E non lo leggeva, perché a volte si piega quello in carta, non lo legge. Allora l'ho fatto fare in plastica, così almeno lo legge tranquillamente. Hai fatto bene. Adesso io quando farò la terza dose mi faccio fare il green pass, così la faccio plastificare, la faccio ripicciolire e plastificare, così almeno me lo metto nel portafoglio, quando me lo chiedono glielo do. Io l'ho fatto via Balbetta lì, da Liccia, tra libreria che c'è. Ah, non costa nemmeno nulla a farlo, ma in 2 minuti te l'ho fatto. E lì ce faccio così, almeno sono più tranquillo. A parte che io devo entrare in farmacia a prendere le medicine, capito, per Simona, e ci vado solo io. Vabbè, in farmacia non lo so se, no, non lo stanno chiedendo ancora in farmacia, però se sanno che ti ho fatto il vaccino va ancora meglio, solo che se a te non ti ha fatto nessun effetto collaterale il secondo, non dovrebbe farti nulla nemmeno il terzo. A me quello che mi ha fatto è mal di braccio e un po' di stanchezza, quello lì sì che me l'ha fatto. E a me il braccio, infiammazione lì, alle gengive, mal di denti, cosa la cosa diavolo è là. E stanchezza, basta. Il primo invece sembrava che ci avevo lasciato, cazzo, mi faceva male la gamba, cazzo, non riuscivo a mettere la dita perché c'avevo questo dolore forte. Figurati, ma il domani me l'ha fatto. Aveva fatto un accidente, quando ha fatto il vaccino si è bevuto la birra, dopo si è fatto vaccinare, un cazzo l'ha fatto, è proprio duro come la doccia Giampiero, non ha sentito manco dolore, nulla, né braccio né nulla. Ah, ti ha preso l'antidolorifico. Allora, Giampiero è un treno, cazzo, guarda, è veramente un treno, non è quasi nulla. Tu si piglia la medicina, anche con la birra non le fa niente, no, con l'antibiotico, è abituato così, prima. Sì, vabbè, ma non è bere molta birra che fa male, non è troppo. Per quello che sto bevendo di birra, Io, ma sto comprando a limone, me lo sai. La bevo dopo pranzo e poi dopo cena. La lattina. Anche perché ti fa pisciare un bembe. Non fai tempo a bere, dopo 5 minuti ti viene di andare in bagno, è diuretica, cazzo. Beve, lo fa la birra quello. E ti gonfia burro, ti imbuffa. E lo fai la gonfia? Quella limone è così, ma è molto meglio dell'altra, di quella verde. Quella verde è proprio la schifosa. Ha peggiorato come quella del Lido, capito? Quando la bevi la senti l'ansia e poi ti senti strano. No, io quando bevo un bicchiere di birra, bevo un bicchiere di birra, non ne bevo né a limone né cose, solo normale, non la voglio nemmeno di quella praticamente non filtrata. Bevo quella normale, mi piace più quella oramai, sono abituata a quella, ma me la bevo un bicchiere quando mangio la pizza, boh, basta, non è che li do così, sagato. Un bicchiere, a volte ce ne parte anche una bottiglia, ma è in due però, capito? Io capito, no, io me la bevo quando mangio, quando ceno e poi a volte la sera me ne bevo una, capito? Oh, vabbè, quando esco con Giovanna ce ne beviamo anche quattro assieme. Quindi, figurati tu, chi usa però, no, l'Adler, vado alla Copec, la pago 1,20 euro, mi sembra 1,19 euro, però stai bevendo birra come si deve, no, roba gasata così, l'inchinosa è molto meno gasata. Quella di Eurospin non la sei perfetta. Sì, ho preso quella limone stamattina, la lattina. C'è una sette, cazzo. Figurati, ho messo fatto tutto a piedi. Ti dovessi comprare una motoretta, detto che te la prendevi questo scooter, questa motoretta, invece non l'hai mai presa. Non puoi fare finanziamenti con la carta, se no vai in galera. E ti voglio monopattino, gli dici monopattino, allora ma non si affidi. Sì, così primo scemo che trovo in macchina, mi mette sotto mi ammazza. Almeno per portarti la birra, te la metti sotto i piedi, la cassa. Ciao Anto, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao. Io stavo per chiudere, sto per portare il cane giù. E allora tu? E allora a me. Sono entrato dal lavoro, andavo a casa, cappa. Hola. Ciao a vedere. Hola. Andiamo. Sono entrato a casa e cosa? Ma picchi negativi ciò? Prova. 1, 2, 3, prova. No. Ah, va bene, pensavo che... E qua mi dava lo strumento picchi negativi, invece qua la radio me la positiva. No, qua sei proprio fissa, non ha né positivi né negativi, sei proprio segnale fissa. Cappa, quant'è già? Non te lo dico anche perché non va bene questo smitter, è inutile che ti dica balla. Io sono sincero, non è secco questo smitter, dà al massimo 9 di segnale. Ha problemi. Cappa. Date com'è, Pompo? 9,20 sì, con questo smitter. Del tornato. Ma tornato, vabbè, del 2009. E già andava, dai. Cappa. Sta andando. Non sto utilizzando moltissima potenza. Che bello sta andando, sono solo col barattino, Come va di segnale? 9,40 radio 5. No, va bene, E sto usando solo l'apparecchio, Non sto usando di niente. Solo l'apparecchietto. Cappa, che no, già va bene, già. Questo qui è l'apparecchio di donato al rettore. Ma cosa? Perché il cobra non è un serpente. Ah, sai, onde ne ha cavata di saggazzata, Hola. Ora vado a vedere così quando arrivo o... Va, un po'. Prova. 1, 2, 3, prova. Sì, è stata più forte, quasi 9.25. Già va bene, manca cosa così no. Andare. Ora, ora. Così, va benissimo così. E ha voglia. C'è anche per il pollice ce l'è. E io a letto perché arrivo, sono più basso. No, va. 5, 3, 4, 5. Eia, sei più basso, 9.15. Vabbè, perché io non sono ancora parecchio solo. Vabbè, sono una posizione diversa dalla mia. No, tu sei attaccato, diverso. No, te lo giuro, sono ancora parecchio solo. Sì, ma col capo. Sono attivato ti dal capo. No, non sto utilizzando tanta potenza, la verità. E se vuoi ti accontento subito, tanto ne sei vendi tu. Io 10 watt. Cappa, se vuoi facciamo la prova con quello là. Dagli 10 watt di questo, di quello tuo. Facciamo la prova, ma su convintore arrivo più forte io perché ho una posizione diversa dalla tua, capito? E in quella zona arrivo molto più forte. A me tutti quelli di quella zona lì mi arrivano a bomba, mi arrivano. Tutti. Invece alla Teroce, vabbè che non avevo antenna sul tetto, alla Teroce mi arrivavano molto di meno. C'è una bella differenza, amici. Vabbè, certo. Alla Teroce era piano terra, gli aerogrido, cioè il primo piano per l'esattezza. Se aveva avuto l'antenna di quello che c'aveva sopra, davanti, gli avessi fregato il cavo e l'avessi messo in casa tua, avresti arrivato forte da lì. No, è un mongoloide, ne ha tagliato. Passo. No, non lo passi, no. Dovessi. Ah, bravo Natalino. Il nome? A te, Giuseppe. E beh, Natalino. E beh, beh. Come va, come va? Sarà. Allora sai quello col display azzurro si è crepato il processore. Il display azzurro? Ehi, quello azzurro. Che ho capito io. Come? Che io ho capito. Tu no. Io ho capito infatti, il display azzurro. Comunque non ho capito che parecchio sia. E il 2009 mi è scoppiato il processore, deve essere, mi scrive killed, morto. No, killed, che vuol dire morto? Ma sai, la mia compagna al telefono l'altro giorno, non mi ha toccato qualche cosa sotto il volerlo e ha spento completamente il display e gli diceva a voce che il display era spento, che display spento, display spento. Siamo andati a farlo vedere in via Pulizzera, non andiamo a dubbi, poi siamo andati in via l'Italia, gliel'ha messa a posto. E vedete che aveva attivato la funzione per i cicchi, quella che parla e basta. Devi schiacciare i due cose laterali, devi schiacciare, io già lo so com'è. Sì, ma a me proprio, io non ho toccato niente, l'ho acceso e mi diceva killed. No, ci ha provato, tanto quello che ha preso, ma ci ha provato mille maniere, guarda quanto ha compito e come si faceva. Non c'è riuscito, solo quello di via l'Italia ce l'ha fatta, quello che c'è alla fine di fronte ai fornitori, quello lì me l'ha messo a posto. Non già lo conosco, care. Poi vabbè, se l'ha comprato l'uomo perché non dice che non si fida, qui si è comprato quello Oppo, si è preso, bello, azzurro metallizzato, ma di una bellezza quel telefono, va bello veramente. E come il mio. Beh, Natali. Oh, cappa, riesci a vedere se fa un prepotente. Fai da bravo. Mica posso alzare pure io, mi è che disturbo. Aio. No, disturbo. La mania della potenza, cappa. Mi volevi passare, adesso ti faccio schiattare. E non è casuale ancora. Infatti non è passato né uno né l'altro. Si sente sovramodulazioni uno sull'altro, ma non si capisce nulla. caldo. Pensavo di non capire. Ma io non so se ti sono mortificato. Ah, è molto adesso com'è il segnale, già? Ah, è bene, da ora! Vai, scalda! Sai, io prova! Attenzione, Gianni, mi senti, cappa? Ehi, lo passo, ho sentito. Lascialo scaldare bene, lascia. Bobo! Uccidoso sarà il giusto! Dimmi, ditemi tutto! Chi passa da te? Fate la prova che me l'ho distratto, dimmi! Chi passa da te? Io o Natalino? Tu Natalino è appena appena più basso. E posso aumentare al doppio, me? Esci che abbasso, esci! Cazzo di... Ma che ti sei attrezzato, Natalino? Non ero lineare io. Ah no, penso che puoi fare anche il doppio, ragazzi di te. Il doppio di quello che ho alzato adesso posso alzare, solo che cosa alzo a fare? A sprecare corrente. Esce un attimino, ma se no è ovvio, lui ha abbocazzato. Facciamo i bravi, dai. E poi basta venire qui e lo vedi se è neolineare, poi già lo sa lui, Antonio, che non è neolineare. Facco io. E allora? Cappa cappa, ma questa cosa è vedrata manco possibile, non si sa mai ti fa distere il cazzo della cosa. Poi tu a Natalia siete vicini, siete un battaccato. Ma io ho l'antenna alta un metro dal tetto. Quando metto l'antenna nuova le senti le matracche. Con un watt di basso. Fa bravo Natalia. Non si sa mai che sale a me l'idea. Mica io ho il tubo un metro, mi sale dal tetto. Devo mettere 3 metri più su l'antenna e con l'antenna nuova voglio vedere se esco un po' più forte. A me mi interessa la ricezione, non la trasmissione. Perché lo so che in trasmissione vado. Stamattina senza propagazione mi aveva sentito la Spagna, vatti un gonfio. Natali, non aggiungava, non lo voglio fare, perché c'è anche freddo.